Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere così numerosi per sentirmi in sintonia con la conferenza di Odi Freddi sulla matematica, sarei tentato dal contarvi per provare a... Allora, oggi come sapete è l'ultima delle nostre lezioni di jazz di questo quinto ciclo. Prima di cominciare io vorrei ancora una volta ringraziare i tecnici dell'auditorium, audio e video, per il lavoro magnifico che fanno qui, grazie. E credetemi, anche per la gentilezza, che è una cosa importante per lavorare bene, anche con cui si lavora. Direi anche, vorrei fare un applauso alle persone che non vedete, c'è uno staff di persone che assistono e che organizzano, farei un applauso anche, grazie. Questi applausi non sono un addio, perché speriamo di fare naturalmente un sesto ciclo l'anno prossimo, non c'è nessun motivo per cui dobbiamo pensare negativamente, è probabile che lo faremo, insomma poi vi daremo le informazioni quando sarà il momento. Oggi è una giornata speciale, non solo perché è l'ultima di questo ciclo un po' più corto quest'anno delle lezioni di jazz, ma perché oggi è il 30 aprile, è la giornata internazionale UNESCO del jazz, che quindi noi celebriamo. Ci sono varie iniziative in tutta Italia che potete vedere sul sito dell'UNESCO, in realtà ci sono in tutto il mondo queste iniziative, noi qui oggi raccontiamo appunto uno dei più grandi musicisti del secolo e non solo di jazz, John Coltrane. Proprio non casualmente è stata scelta la giornata internazionale dell'UNESCO, anche perché di Coltrane quest'anno cade il cinquantenario della morte, a luglio in particolare, come vedremo, e che è uno dei tanti, delle tante ricorrenze di questo 1917, dal primo disco di jazz al centenario della morte di Scott Joplin. C'è il centenario della nascita di Thelonious Monk, di Ella Fitzgerald, di Dizzy Gillespie, ma insomma, dovendo scegliere, alla fine abbiamo deciso di ricordare la figura di John Coltrane. John Coltrane, che è ha avuto una vita alla fine molto breve. Noi siamo abituati a immaginare che Coltrane effettivamente ha fatto un sacco di cose, ma se andiamo a vedere poi insomma la sua data di nascita e di morte, è praticamente morto 41enne per un tumore al fegato, e non curato peraltro, comunque preso molto tardi e probabilmente in ogni caso letale, ma è un musicista che ha avuto una vita molto breve rispetto alla quantità di cose che ha fatto. E come vedremo questa mattina, c'è anche un altro aspetto che io trovo stupefacente, e me ne sono reso conto solamente poco tempo fa. Da un punto di vista strettamente artistico, Coltrane è maturato molto tardi. Di solito è un esempio che faccio ai miei studenti in conservatorio, quelli anche trentenni, per incoraggiarli. Cioè, Coltrane a 30 anni non era nessuno. Quindi, insomma, avete sempre tempo, come dire. Non è stato un classico bambino prodigio, non è stato il classico talento, che ne so, come Louis Armstrong, per fare un esempio, che a 16 anni già suonava in un modo stupefacente. Coltrane in un certo senso è simile anche a un altro personaggio che ha avuto, come dire, una carburazione lenta, Duke Ellington ad esempio. Non solo, ma Coltrane è maturato veramente solamente intorno al 1959, cioè all'età di 33 anni. Questo vuol dire che tutto il lascito più importante di Coltrane è concentrato fra il 1959 e i primi mesi del 1967, cioè poco più di, diciamo, otto anni, nei quali Coltrane ha dato il massimo e nei quali ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. E questa concentrazione è veramente stupefacente, soprattutto se poi consideriamo, come vedremo fra breve, che in questi 7 anni lui ha avuto un'accelerazione creativa fuori del comune. Coltrane lo ascoltiamo subito, direi, proprio per accorgerci che non è nato imparato, come si dice a Napoli. Cioè, Coltrane va a fare il servizio militare nelle Hawaii, e proprio alle Hawaii registra con un gruppo di musicisti una sua personale versione di un pezzo che Charlie Parker aveva inciso pochi mesi prima, Coco, a cui abbiamo dedicato un viaggio nel capolavoro, non mi ricordo più in quale stagione delle lezioni di jazz, forse 3 o 4 anni fa. È un pezzo difficilissimo, si sente che ha voglia di tentare qualcosa di fuori del comune, di fuori dell'ordinario. Qui suona il sax contralto, perché Coltrane nasce come contraltista, ma la cosa, adesso senza, come dire, infangare la memoria di Coltrane, ma al contrario, la cosa stupefacente è che qui sentite un musicista che suona male. Cioè, sentite un musicista che a 18 anni ci prova, tenta di fare qualcosa, 20 anni per la precisione, tenta di fare qualcosa che al di là delle proprie capacità e delle proprie forze, non ha controllo, non ha un grande senso dello swing e gli mancano tutta una serie di capacità che acquisirà studiando col tempo, come fanno tutti i musicisti, anche quelli più geniali. Ascoltiamo. Avete sentito frasi smozzicate, però c'è un'energia sotto di qualcuno che sta tentando di fare qualcosa particolarmente audace, appunto, che vuole superare i propri limiti. Si sente che ha dei limiti evidenti, ma si sente anche che vuole fare qualcosa che vada al di là, appunto, delle sue immediate capacità. E quindi è un musicista che ha bisogno di studiare. Lo studio è fondamentale per la crescita di Coltrane. E in particolare è fondamentale Dennis Sandoli, che era un chitarrista di Filadelfia, che vedete nella foto a destra, con il quale Coltrane ha studiato. Coltrane era nato nel North Carolina, in una cittadina che si chiama Amleto. Sapete che negli Stati Uniti ci sono cittadine con i nomi più stravaganti, Hamlet, Amleto nel North Carolina, però poi Coltrane in realtà cresce musicalmente e personalmente in Pennsylvania, a Filadelfia. E qui entra soprattutto nel giro, dopo aver fatto il militare e aver registrato questa cosa fra amici che avete sentito poc'anzi, comincia a studiare in maniera più seria e entra soprattutto nel giro del rhythm and blues, come vedremo. Dennis Sandoli è uno di quei personaggi di cui raramente si parla nelle storie del jazz, perché noi abbiamo sempre l'idea che il musicista di jazz prende lo strumento e, beato lui, suona, illuminato dalla grazia divina, come dire, con questa capacità infusa da chissà quale mistero creativo di creare dal nulla. In realtà c'è sempre un duro lavoro, ci sono sempre degli insegnanti che ti aiutano nella tecnica dello strumento, nel linguaggio, nell'esperienza, negli esercizi, e questi insegnanti, gli insegnanti dei jazzisti, in genere sono poco conosciuti. Sandoli è uno dei più importanti in assoluto, perché la scena di Filadelfia degli anni 50, dei primi anni 50, che era ricchissima di musicisti, da lì usciranno un'infinità di grandi musicisti di hard bop degli anni 50 e 60, quella scena era nutrita soprattutto dalla sapienza di questo importante musicista, che tra l'altro suonava la chitarra ma insegnava ai musicisti più diversi. Vi prego di notare un altro dettaglio non secondario: si tratta di un musicista bianco, e in anni di discriminazione razziale è, come dire, un segno di incontro fra persone che la legge invece voleva tenere separate. Coltrane diciamo lavora sostanzialmente nel mondo del rhythm and blues, ma in realtà suona anche, comincia a farsi notare anche attraverso altri jazzisti, ma ha un problema grosso che come dire, lo condiziona fin da questi anni giovanili: è eroinomane, è schiavo dell'eroina, e questo, come vedremo, ha come purtroppo succedeva a moltissimi musicisti di jazz di quegli anni, lo limita moltissimo. Forse, come capirete più tardi, uno dei motivi per cui Coltrane non si è, come dire, non è sbocciato presto, ma è sbocciato tardi, è dovuto proprio anche a questo problema grossissimo. Comunque, eroina o non eroina, comincia a farsi notare, suona con il gruppo di Dizzy Gillespie. Voi direte: caspita, sì, però in una fase, i primi anni 50, in cui Dizzy Gillespie in realtà stava toccando il punto più basso della sua carriera, sia a livello di qualità musicale, sia a livello di possibilità professionali. Poi suona con un sassofonista che forse alcuni di voi non conoscono, che si chiamava Earl Bostic, che invece era molto più popolare di Gillespie all'epoca, ed era un sassofonista che faceva prevalentemente rhythm and blues. Ed è nel campo del rhythm and blues che Coltrane eccelle. È uno di quei sassofonisti, nel frattempo è passato al sax tenore, come vedete anche nella foto con Gillespie, è passato al sax tenore, che è lo strumento principe del rhythm and blues, ed è uno di quei sassofonisti che fanno, come dire, molta caciara con lo strumento. Oggi lo facciamo un po' girare nella tomba, Coltrane, usando dei termini forse un po'... fa un po', diciamo, è un musicista che suona secondo i cliché del rhythm and blues, che vuol dire suonare con grande energia sullo strumento, urlando, adottando un linguaggio blues molto viscerale, molto potente, anche grezzo, se vogliamo. E Coltrane è uno di quelli che è costretto, per campare, a fare spettacolo, cioè a prendere il sassofono e camminare sul balcone del bar, in mezzo ai bicchieri, alle persone che sono lì sotto, ubriache, andare su e giù col sassofono, urlando più o meno sempre la stessa nota, come un po' in una specie di anticipazione del rock and roll. E questo è il clima in cui cresce Coltrane. Ed è un clima che sentiremo anche nei dischi che lui registra, e durante le serate che fa, con il leader più importante che incontra in questa sua fase formativa dei primi anni 50, cioè quando Coltrane ha... ormai quasi 30 anni, quindi insomma il tempo passa, lui studia, suona, ma praticamente è un musicista nell'ombra. E in particolare è Johnny Hodges, che vedete sulla destra, il ex sax contralto che aveva lasciato di Duke Ellington, che aveva lasciato l'orchestra di Ellington per mettersi in proprio, e che diciamo poi farà una carriera in proprio non particolarmente brillante, cosa che lo indurrà nel 1956 a tornare nell'orchestra di Ellington. Noi sentiamo adesso un frammento di un pezzo che si chiama Castle Rock, in cui sentirete un Coltrane irriconoscibile che suona proprio rhythm and blues, il più commerciale e il più aggressivo possibile, ma in realtà per noi è un ascolto molto importante, perché sentirete che da qui viene quella potenza espressiva, anche quell'aggressività di suono, quello sporcare il suono del sax tenore, che poi troveremo addirittura nelle prove finali della sua carriera. è un live. Gravi, con le note strozzate. Eccetera, il brano è più lungo. Avete sentito queste note gravi, le note strozzate acute? Sono tutte caratteristiche che poi entrano a far parte dello stile di Coltrane. Coltrane in quegli anni comunque comincia a farsi notare, al punto tale che qualcuno lo segnala a Miles Davis, ad un suo coetaneo. Miles Davis era anche lui del 1926, siamo nel 1955, hanno tutte e due 29 anni, ma Davis si avvia a, come dire, a decollare verso una carriera formidabile. Sono proprio gli anni in cui riesce, come dire, a lasciarsi alle spalle, tra l'altro anche lui, l'eroina, si abbandona, riesce a pulirsi, diciamo, a ripulirsi dalla dipendenza dall'eroina e comincia la formidabile carriera che poi tutti conosciamo. E comincia a essere un musicista molto richiesto ed apprezzato, e anche più sicuro di sé. Coltrane invece, coetaneo di Davis, alla stessa età, è un musicista oscuro che il trombettista adocchia e chiama nel proprio gruppo. Il Coltrane che sentiamo nei gruppi di Davis è molto diverso dal Coltrane che conosciamo nelle prime registrazioni che avete sentito, e anche poche altre, in realtà sono pochissime le prime registrazioni di Coltrane, per cui non abbiamo ben chiaro com'è che Coltrane sia passato dalla cosa che avete sentito qui al fraseggio jazz più maturo che esprime con il quintetto di Miles Davis. Non c'è molto chiaro. Quello che sappiamo è che Coltrane era un secchione. Coltrane era uno che studiava un sacco, ma tanto. Ha passato più tempo a studiare che a suonare sul palco. Coltrane è noto per il atteggiamento di quello che fa il concerto, finisce il primo set, va nel camerino, si chiude dentro e studia. E poi entra, suona il secondo set, raccoglie gli applausi del pubblico, torna nel camerino e studia. È un musicista che è ossessionato dalla perfezione del fraseggio, dall'ancia, dal suono, dal padroneggiare, per esempio, tutta una serie di piccole frasi che Dennis Sandoli, il suo insegnante di Filadelfia, gli aveva insegnato. Questa intensità dello studio, questa cocciutaggine, probabilmente è quello che lo aiuta a maturare quando suona per alcuni anni con il quintetto di Miles Davis. Ora, nei dischi con Miles Davis, Coltrane si fa finalmente notare alla grande critica nazionale e in parte anche internazionale e al pubblico più vasto. E cosa scopre il pubblico più vasto? Intanto che c'è un sax tenore emergente interessante che magari può impensierire la figura dominante del sax tenore di quegli anni, che era Sonny Rollins, che era considerato il più grande sax tenore vivente, ma almeno tra quelli più giovani. Ma soprattutto a noi interessa questa cosa, che Coltrane matura uno stile veramente personale, molto interessante, che è costituito da una specie di ossessione, che in questa fase è la seguente, quella di suonare più note possibili, di suonare tanto. Coltrane è un logorroico, oltre che un secchione. È un musicista che in questa fase sente di avere tantissime cose da dire e affronta la sfida di metterle tutte nel minor tempo possibile. Per cui lui in un certo senso è un classico musicista bop che pensa a fraseggiare muovendosi sopra gli accordi, ma decide per esempio invece di suonare a, mettiamo a crome, per esempio, 1, 2, 3, 4, a questa velocità, lo fa a semicrome, 1, 2, 3, 4. Suonando al doppio della velocità, anche se la ritmica mantiene la stessa velocità, è chiaro? Cioè, se io faccio così, vado a questa velocità. Ma se io lo faccio mentre 1, 2, 3, 4, velocissimo, anche addirittura andando fuori tempo, non rispettando il tempo di base per mettere più note possibili, non 4, come si fa qui, ma 5, 7, 8 note per ogni beat, per ogni pulsazione, Coltrane in questo modo può aggiungere più note possibili e può sperimentare su due cose che lo interessano. Primo, il ritmo. Cioè, io voglio accelerare tantissimo il fraseggio e quindi lavoro moltissimo nel mettere un numero irregolare di note sopra ogni pulsazione. Per esempio, se io ho questo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, metto due note a ogni pulsazione, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oppure ne metto 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, lui fa questo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, però posso anche metterne 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, diventa una cosa velocissima. Secondo, l'armonia, cioè le note che scelgo sugli accordi, io cerco di... Se ho questo ritmo qui, e faccio questi accordi, ho quattro accordi mentre faccio questo ritmo. Coltrane approfitta del fatto che ho un accordo lungo, questo, e suonando tantissime note, sapete cosa fa? Sovrappone altri accordi sopra. Cioè, se la sezione ritmica fa questo, lui sopra magari suona. Per esempio. Che adesso suona molto dissonante perché lo suono lentamente, ma siccome il tempo è rapido, voi sentite tantissime note che si sovrappongono all'armonia di base. Tutto questo impoverisce il terzo fattore, la melodia. Suonando un sacco di note e sovrapponendo un sacco di accordi, la melodia è povera, non è cantabile, non è bella, non è memorabile. Coltrane lo sapeva, nelle interviste lui, anche più tardi, diceva io sono forte sul ritmo e sull'armonia, ma sulla melodia non sono tanto bravo, non c'ha tanto un orecchio melodico. Io direi di ascoltare... aggiungo un'altra cosa, scusate, che così capiamo meglio l'ascolto che stiamo per fare. Nel suonare queste frasi velocissime c'è un limite per il cervello e per le dita. Non puoi avere il controllo massimo di tutto quello che fai. Ci sono degli automatismi, cioè le dita alla fine ti cascano sempre negli stessi punti sullo strumento, che tu suoni il pianoforte o il sax. Si chiamano formule, cioè ti adagi su delle soluzioni che quando suoni velocissimamente ti vengono sotto le dita, è normale. Ecco, il fraseggio di Coltrane di questi anni è strapieno di formule. Per dirlo in maniera un po' volgare, un po', diciamo, eccessiva, è come se suonasse sempre le stesse cose. Da un assolo all'altro spuntano continuamente queste frasi, queste formule. Adesso qui non è la sede per entrare nel dettaglio, ve le potrei mostrare una per una, anche nell'assolo che stiamo per ascoltare, ma, diciamo così, rendetevi conto che dietro questa raffica di note ci sono in realtà delle soluzioni che, siccome sono molto veloci, non ce ne accorgiamo, ma di fatto sono più o meno sempre le stesse. È un po' un limite del Coltrane di questi anni, però è un limite di uno che sta sperimentando, di uno che si muove su un terreno nuovo e comunque alla fine si deve affidare anche a delle soluzioni standard. Questo modo di fraseggiare, così fitto, contrasta con quello di Miles Davis. Miles Davis suona delle lunghe melodie con poche note, Coltrane suona quelle che un critico, Ira Gittler, chiamò sheets of sounds, raffiche di suoni. All'epoca fu tradotto erroneamente con fasce di suoni, lenzuoli di suoni. È come sheets of rain, cioè le raffiche di pioggia, raffiche di suoni. Noi sentiamo da Straight No Chaser, un blues del 1958 con il quintetto di Miles Davis, è un'esecuzione molto lunga, vado a estrapolare solamente l'assolo di Coltrane. Comincia a suonare velocissimo. Formula. Mentre sviluppa queste raffiche di suoni che, ripeto, appaiono in maniera costante in tutti i dischi di Davis di quegli anni, Coltrane comincia anche una carriera solo discografica, non professionale dal vivo, come leader, incide dei dischi a proprio nome, emerge, secondo me, un aspetto che a cui potremmo magari un giorno dedicare una lezione, del Coltrane compositore, molto interessante. Coltrane viene studiato tanto come improvvisatore, ma in realtà era già in questa fase un compositore molto interessante, come si ascolta nei suoi primi dischi da leader, ma al tempo stesso sta cercando di mettere a punto qualcosa di meno frenetico, di più musicale anche. È fondamentale per lui l'incontro con Thelonious Monk, con cui lavora al Five Spot, proprio nel club che vedete nella foto con Shadow Wilson e Ahmed Abdul Malik, batteria e contrabbasso, lavora per un paio di mesi nell'estate del 57 e più tardi suonerà anche alla fine, nel dicembre del 57, alla Carnegie Hall, c'è un disco che è uscito qualche anno fa, bellissimo. È un incontro breve, ma è un incontro folgorante. Coltrane nelle interviste amava molto raccontarsi, amava molto raccontare la sua musica, come vi ho detto, era un secchione, quindi aveva bisogno di spiegare, di dire, di raccontare quello che faceva. Però non è mai stato del tutto limpido su quello che gli ha insegnato Monk, cioè gli ha fatto capire che Monk, gli ha aperto un modo diverso di pensare sulla musica, benché appunto i due abbiano suonato per breve tempo. Forse una delle influenze di Monk ha a che fare col fatto che Coltrane comincia a pensare ai suoi assoli in maniera meno frenetica, ma più strutturale. In particolare, questo è un periodo alla fine degli anni 50, 58, 59, in cui vediamo affiorare un pensiero diverso. E questo pensiero, in particolare, è un pensiero strutturale basato, per cominciare, sull'idea di ondate. Cioè Coltrane comincia a comincia con una frase, torna indietro, poi la ripete più ampia, magari salendo di registro e facendo più note, poi torna indietro, la amplia ancora di più, poi introduce un elemento estraneo che fa, come dire, che mescola le carte, fa da contrasto, e poi ritorna a questa idea di costruire l'assolo a ondate, a frasi, ad arcate, arcate brevi che si allungano gradualmente, sia in termini di registro, quindi andando più su per esempio, e poi scendendo giù, sia in termini di quantità di note. Non solo, ma la cosa interessante è che queste arcate si basano su delle cellule musicali di 3 o 4 note. Per esempio, oppure 4 note. Questa cellula musicale così semplice, a volte sono cellule musicali basate con un salto in mezzo, per esempio, oppure, questo è il salto, e 3 note vicine, oppure le note vicine e poi il salto, è il salto. Sono, tenetevi forte, delle piccole cellule che gli aveva insegnato Dennis Sandori a Filadelfia. Sono gli esercizi che lui faceva da ragazzo che diventano elementi musicali inseriti in una logica di sviluppo dell'assolo più coerente, meno frenetica, come avete sentito in Strike No Chaser. Un esempio magnifico di questo approccio, scusate, cambio l'ordine perché preferisco parlare prima di questo. Un esempio magnifico di questo approccio è l'assolo di So What, nel disco di Miles Davis, Kind of Blue. Vi faccio sentire questo assolo celebre, perché ci interessa proprio per cogliere questo aspetto. Sentirete che ci sono gli sheets of sounds, cioè quelle frasi frenetiche, ma alternate a questa idea di cellula melodica che si espande e si contrae. Quattro note. Ora comincia. Espande. Una formula. Riespande. Vedete che sono all'opera, e qui vediamo un principio fondamentale di Coltrane, due principi. Uno, quello del flusso, che ha qualcosa di, come dire, istintivo, irrazionale, di lasciarsi andare. E un altro invece razionale. Prendere la cellula e la espando. Si sente che c'è, come dire, un pensiero sistematico. Coltrane è un sistematico. Prendo l'idea e la ripeto. Poi la torno indietro e la ripeto espansa. Poi ritorno indietro e la trasporto. Poi la parto da su e scendo giù. Sembra un esercizio. E considerate che questa componente razionale sistematica è stata sempre rimproverata dai critici. All'epoca dicevano a Coltrane, bravo, bravissimo, tra l'altro, aggiungiamo, c'ha un suono meraviglioso, sta sviluppando, un suono bellissimo, limpido, nitido, frutto di questo lavoro ossessivo sulle ance. Coltrane si metteva contro un muro a casa per avere il suono che gli rimbalzava contro e passava le ore in piedi aggiustando, limando l'ancia, lavorando sul fiato. E c'è questa pulizia di suono meravigliosa che a volte si strozza quando va sul registro acuto, avete sentito, che il risultato, come dire, è l'eredità della esperienza rhythm and blues più aggressiva, e però è come uno che pensa troppo, gli rimproverano. Mette troppe note, pensa troppo, è molto razionale, non si lascia andare. In realtà Coltrane sta perseguendo, come vedremo, un'idea molto molto particolare. Questi sono anni decisivi, il 1958-59 sono anni decisivi. È l'anno in cui, sono gli anni in cui incontra la sua compagna, Naima, e soprattutto è l'anno in cui viene pubblicato, prodotto e pubblicato l'album Giant Steps. Perché Giant Steps? Perché Coltrane si libera definitivamente dall'eroina. E liberandosi dall'eroina a 33 anni diventa letteralmente un musicista libero, un essere umano nuovo. E a questo punto lui se ne rende conto, per questo intitola il disco Passi da gigante, si rende conto che dentro di sé c'è un'energia pazzesca. Per la verità Coltrane acquisirà altre due dipendenze, una quella dalle sigarette, si metterà a fumare, e un'altra quella dalle caramelle, per la quale ha tutta la mia solidarietà, peraltro. Infatti Coltrane aveva terrore dei dentisti, tra l'altro. Giant Steps è un disco fondamentale perché rappresenta davvero per molti aspetti, è come uno studio, forse è un disco artisticamente meno significativo, ma da un punto di vista dello studio, dell'esercizio, è uno dei dischi più importanti della carriera di Coltrane, ma anche uno dei più influenti in assoluto. E qui, per capire il perché, andiamo a fare concorrenza a Odi Freddi, subito, immediatamente. È un tentativo di, perché io sto cercando di interferire con le slide di là, spero che appaia questa cosa di là, in modo che il pubblico venga di qua. Allora, non spaventatevi, ve lo spiego in maniera, credo, il più semplice possibile. Gli addetti ai lavori hanno già capito di cosa si tratta, chi non è addetto ai lavori cerco di spiegarlo in un modo più semplice possibile. Quel cerchio che vedete è un sistema elaborato già a partire dalla fine del Cinquecento, in Europa, per indicare le relazioni che ci sono fra le tonalità. Si può leggere sia dal Do verso destra, scendendo Do, Sol, Re, La, Mi, sia scendendo Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle. Cosa lega? Perché queste note non sono nell'ordine della scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma sono invece con dei salti, per esempio Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Re, ogni cinque note. Re, Mi, Fa, Sol, La. Perché in realtà in musica le tonalità hanno delle affinità appunto ogni cinque note. Cioè, vi spiego, tra la scala di Do e la scala di Sol, sono tutte e due scale di sette note, ci sono sei note in comune tranne una che è diversa. Quindi le due scale suonano, sono molto simili. Quella di Sol c'ha un fa diesis che nella scala di Do non c'è. Anche se partono da note diverse, in realtà le due scale di sette note, quella di Do e quella di Sol, hanno lo stesso materiale, gli stessi mattoncini, tranne uno. Quindi sono molto affini. Idem, se voi andate da Sol a Re, hanno sei note in comune, tranne una. Ovviamente, fra Do e Re, voi avete cinque note in comune, tranne due. Più vi allontanate dal Do e più le note in comune con il Do diminuiscono. Mi seguite fin qui? Lo capirebbe pure Odi Freddi, non è difficilissimo. Allora, in genere nella musica tonale, soprattutto nel jazz, i musicisti passano da una tonalità all'altra facendo dei piccoli salti. Vado da Do a Fa, vado dalla bemolle a Re bemolle, o tutt'al più vado da Mi bemolle a Fa, da Re a La. In questo modo, quando suono, capite, se io vado per esempio da Sol a Re, in cui ho sei note in comune e una diversa, mentre suono e vado da una tonalità all'altra, è facile, ho sei note in comune per andare sull'altra, mi basta cambiare una nota. Sto un po' semplificando, ma mi capite, no? È abbastanza semplice come concetto. Viceversa, se io devo andare, per esempio, da Do a Si, che pure nella scala sono vicini, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma le tonalità, in realtà, non hanno quasi nessuna nota in comune, ce n'hanno una sola. Quindi, quando io passo da una tonalità all'altra, devo pensare che cambiano tutte le note. È più difficile, soprattutto se suono veloce. Allora, vi ripeto, nel jazz voi avete questi passaggi tra tonalità vicine. Coltrane, invece, dopo aver letto un libro di teoria di Nicholas Slonimsky, scopre che si possono collegare le tonalità anche molto lontane. Per esempio, lui potrebbe suonare andando da Do a Mi, che ci sono quattro scatti. Tra Do e Mi ci sono una, due, solo tre note in comune. È una cosa che i jazzisti non facevano, c'è nella musica di Schubert, ma con altri effetti. Andare da Do a Mi è complicato, si chiamano relazioni di terza, perché in effetti sulla scala avete Do, Re e Mi, ma tra le tonalità le note in comune sono poche. Lo stesso fra Mi, Fa, Sol e La, relazione di terza, La, Si, Do. Collegando per terze le note del questo si chiama circolo delle quinte, perché quinte? Do, Re, Mi, Fa, Sol, cinque note. Sol, La, Si, Do, Re, cinque note. Re, Mi, Fa, Sol, La, cinque note. Circolo delle quinte. Collegando le note così, Coltrane si accorge che non solo può collegare tonalità lontane, cosa che diventa per lui che improvvisa complicato, è una sfida, un modo diverso di improvvisare, che i jazzisti non hanno fatto mai. Ma scopre anche che viene fuori un simbolo mistico. Lui c'ha un cerchio, che come sapete è simbolo di perfezione divina, ma c'è anche un triangolo, che è un simbolo divino, inscritto dentro il cerchio. Ve l'ho detto che ho di Freddy rosica di là. Quindi voi avete questo doppio significato. Da un lato una sfida musicale a collegare le tonalità lontane. Dall'altro questa sfida musicale si porta graficamente un significato simbolico. Da un punto di vista acustico, collegare le tonalità lontane, per esempio così, sono queste. Questa per esempio è Si, questa è Sol, questa è Mi bemolle. Anzi, andiamo su quelle che sono scritte lì. Do, Mi, La bemolle. Sono queste le tonalità. Per andare da una tonalità all'altra, lo faccio su un'altra tonalità, si usano degli accordi di collegamento. Per andare da qui a qui, faccio così. Poi faccio... Insomma, uso degli accordi di collegamento. Il brano Giant Steps, Passi da Gigante, è fatto in questo modo. È un esercizio per suonare su queste tre tonalità, con gli accordi di collegamento tra l'uno e l'altro. Il titolo, Giant Steps, allude sia alla liberazione che Coltrane ha conquistato, abbandonando la dipendenza dall'eroina, sia al fatto che i salti tra le tonalità sono salti da gigante, non è come tutti gli altri jazzisti che vanno da qui a qui, lui salta da qui a qui a qui. Scrive questo pezzo, che in realtà è un esercizio, è uno studio, e lo suona a una velocità mostruosa, facendo qualcosa che, non sto parlando di arte, sto parlando di tecnica, qualcosa che tecnicamente era inconcepibile per qualsiasi, non dico sassofonista, ma per qualsiasi musicista del suo tempo. Coltrane apre una strada tecnica, conquista un terreno di agilità, di pensiero, di improvvisazione che nessuno era in grado di affrontare in quel momento. C'è uno scotto da pagare però per questo, che per fare questa cosa a una velocità estrema, su tanti accordi, a grande distanza fra di loro, tecnicamente impossibile, lui si basa molto sulle formule. Se andiamo a rallentare l'assolo o lo trascriviamo, scopriamo che lui suona sempre più o meno le stesse cellule di quattro note, quella col salto dentro, trasportandole rapidamente. È una cosa che si è preparato a casa. Non è un difetto, attenzione, il fatto che lui si sia preparato questa cosa a casa non è un difetto. È il necessario, come dire, passo per conquistare un terreno altrimenti inaccessibile. Sentiamo un pezzetto di questo pezzo che è poi diventato celebre. All'epoca questa musica era incomprensibile, cioè tutti si chiedevano ma che sta a fare? Come fa? Ancora oggi se andate su YouTube e scrivete Jan Steps troverete gente che a casa propria fa vedere di saper studiare su Jan Steps suonandolo sul basso, sulla tromba, sul pianoforte. Questo è un pezzo, come dire, è come dire che serve a dire ho oltrepassato una soglia, sono in grado di suonare questa roba, quindi sono in grado di suonare qualsiasi cosa. All'epoca solo Coltrane era in grado di farlo. Questo modo di collegare gli accordi prese il nome di Coltrane Changes. Changes è un, come dire, un modo per dire gli accordi, i cambi, cambi di accordo. E Coltrane tra il 59 e il 60, proprio in pochissimi mesi, ormai parte da questo momento, sappiate che parte questa velocità incredibile con cui Coltrane prende le idee e poi le abbandona in una frenesia sperimentale pazzesca, in pochi mesi comincia a applicare questo sistema a qualsiasi pezzo. Per esempio ai pezzi che suonava con Miles Davis, perché all'epoca stava ancora suonando con Miles Davis mentre faceva queste cose. Ormai, anzi, era insofferente, non ce la faceva più a fare i tour con Davis, non gli interessava, inseguiva le sue idee, ma per contratto era costretto ancora a suonare con Davis. Per esempio prende degli standard, prende But Not For Me, prende What Is This Thing Called Love, prende un sacco di pezzi e che cosa fa? Li inzeppa di accordi, ci mette, anche se Gershwin per But Not For Me ha scritto degli accordi semplici, lui ce ne aggiunge altri basati su questo sistema, a costo di sfigurare la melodia. Perché qui Coltrane sta pensando in quello che io chiamo una sorta di iper bebop, di iper bop. Il bopper è uno che, Charlie Parker, suona veloce sugli accordi. Gli accordi sono degli slalom e quindi devo dare coerenza alla melodia suonando su questi accordi a una certa velocità, è una sfida. Coltrane è iper bebop, è ancora più veloce, mette ancora più accordi e ha per giunta distanze tra di loro con poche note in comune, quindi ancora più difficile. Un esempio di questo aggiungere accordi su accordi a brani semplici, che fa tra il 59 e il 60, è un arrangiamento di Body and Soul, con il suo quartetto di cui parleremo tra poco, 1960, nel disco My Favorite Things. Vi ricordo che il tema di Gershwin ha pochi accordi. Ecco, su questo inizio Coltrane invece mette qualcosa come 8-9 accordi, dove Gershwin ne mette 3. Sentite. Ah, scusate, ho fatto l'esempio di But Not For Me, questo è Body and Soul, ok, è uguale, anzi non è uguale, ve lo rispiego. Scusate, ho avuto un attimo un lapsus, è per mostrarvi che sono un essere umano. Chissà perché pensavo a Body and Soul. In realtà lui questi Coltrane Changes li mette, pensavo a But Not For Me, questi Coltrane Changes li mette nella parte centrale della B, dove ci sono pochi accordi, e sentirete, quindi non all'inizio, sentirete che ne mette tantissimi. Ve li indicherò il punto. Proprio si sente che ne aggiunge tanti. Contrariamente, sulla parte iniziale del pezzo, cerca di metterne meno possibili. Sentirete il basso che sta fermo. Tutum, tutum, tutum. Ok? Ok. Tutto fermo e lui fa il tema di Body and Soul sopra. Ora arrivano i Coltrane Changes, tra poco. Qui ci sono pochi accordi e qui li mette, eccoli. Pochi, quelli originali. Ora. Torna alla stasi. Eccetera. Quando poi lui va a improvvisare, in quei punti che vi ho indicato, dove invece di starci due accordi ce ne sono sette o otto, lì lui comincerà a metterci un sacco di note. È una sfida in più. Cosa che appunto sfigura un po' Body and Soul, ma per lui il pezzo diventa più interessante come sfida ritmica e armonica. Naturalmente più note siete costretti a mettere e meno la melodia diventa interessante, evidentemente. Torniamo a quel deficit, diciamo, melodico che Coltrane sentiva di avere. È anche però un modo molto originale di, come dire, dare un suono nuovo agli standard. Ora, il brano che avete sentito era suonato nel 1960 dal suo nuovo quartetto. Coltrane lascia Davis, i due si lasciano abbastanza male, non erano mai andati d'accordo, tra l'altro, per un motivo molto semplice, per una incompatibilità caratteriale. Davis riteneva che quando si parlasse di musica non bisognasse dire niente, cioè devi capire da solo, devi intuire, devi lavorarci per conto tuo, e Davis faceva questo in modo che i musicisti non fossero condizionati dalle sue parole. Devi andare a sensibilità. Coltrane invece, da bravo secchione sistematico, voleva la spiegazione di tutto. E che note ci devo mettere qui? E come funziona? Davvero così? Come funziona questo? E va bene se faccio così? E va bene se faccio colà? Per educazione non vi dico la risposta di Davis. Ve la dico in inglese, fuck off, va bene. Questa era la risposta di Davis. Erano proprio due modi opposti. A un certo punto Coltrane, che si sente piuttosto sicuro ormai della strada intrapresa, lascia Miles Davis e fonda questo quartetto, di cui il bassista Jimmy Garrison è l'ultimo arrivato, arriverà nel 1961, e è sintomatico che Garrison e Tyner siano tutti e due di Filadelfia. Quindi lui attinge, diciamo, dalla città nella quale era cresciuto, mentre il batterista Elvin Jones veniva da Detroit. Scusate, questo quartetto è la formazione più importante del jazz moderno dagli anni 60 in poi, è anche la più influente. L'assetto di sassofono, piano, basso e batteria non era una novità assoluta. Coltrane, sapete da chi lo prende? Da Monk. Non era un assetto classico, sax, tenore, piano, basso e batteria, ma era proprio quel tipo di formazione con la quale Coltrane aveva suonato per pochi mesi con Monk nel 57. Quindi riprende quell'assetto. Ora, il modo in cui sono disposte le fotografie non è casuale, perché Coltrane pensava a questo quartetto come ad una, come posso dirvi, ad un campo di forze che funzionano in questo modo. C'è un asse che va dal sassofono alla batteria. Coltrane e Elvin Jones sono i due energici del gruppo. Sono... Il dialogo avviene fra loro due. Elvin Jones è un batterista rivoluzionario. Attenzione, ognuno è un rivoluzionario nel loro campo. E la rivoluzione avviene dentro il quartetto di Coltrane, mentre suonano insieme. Elvin Jones frammenta completamente la scansione ritmica e assimila la batteria a un tamburo africano, suonando più ritmi contemporaneamente, diversi fra di loro, sul piatto e sui tom, sul rullante e sui tom. Ma soprattutto è un musicista che riempie molto e ha bisogno di dialogare con qualcuno. Dialoga con Coltrane. Coltrane ha bisogno di un partner energetico, di qualcuno che lo affronti con la stessa energia con cui lui affronta il fraseggio melodico. E questo è quindi l'asse energetico John Coltrane e Elvin Jones. Di fronte a questa massa di suono che spinge in avanti, c'è bisogno di qualcuno che faccia da contrappeso. Qualcuno che, si dice nel gergo jazzistico, tiri indietro. E questo è Jimmy Garrison. È un bassista che ha un modo di suonare, che aveva un modo di suonare, sembra quasi che suoni a rallentatore, cerca di essere sempre in ritardo sul tempo, in modo da frenare l'eccesso di energia fra John Coltrane e Elvin Jones. McCoy Tyner è una specie di pendolo. Quando suonano tutti insieme, lui sta sul tempo, sta in mezzo, fa da equilibrio. Quando invece fa da solo, tende a essere anche lui l'elemento energetico che spinge avanti. Questo quartetto, tra il 1960 e il 1964, ha prodotto una sfilza di capolavori che hanno cambiato la storia della musica. Uno di questi, che non ascolteremo, ve lo dico subito per intero, perché i brani sono tutti molto lunghi, perché Coltrane tende, tra l'altro, a estendere le arcate di energia dei pezzi jazz più di quanto fosse stato fatto fino a quel momento. Uno dei più famosi è il brano My Favorite Things, che ci mostra molto bene anche un altro aspetto, prima di spiegarvi quello schema che c'è in fondo, ci spiega bene un altro aspetto della musica di Coltrane in questo periodo. My Favorite Things viene registrato pochi mesi dopo Jan Steps. Jan Steps cos'era? Era l'ammassare tanti accordi a una grande velocità. My Favorite Things invece ci mostra un pensiero completamente opposto, cioè eliminare gli accordi. Ma come? Coltrane non stava perseguendo l'idea di metterne i più possibili? Sì, Coltrane persegue tutte e due le idee. Da un lato metterne tantissimi, da un lato non metterne più neanche uno. Al posto degli accordi, avere un pedale, si dice tecnicamente. Una nota fissa, che quindi annulla completamente il flusso degli accordi. Anzi, ce li togli sopra, non li suoni neanche. Questo dà una grande libertà al solista, perché se io gli accordi, capite come ho detto prima, sono condizionato in questo slalom, ma se ho una nota fissa sopra, posso suonare quello che voglio per tutto il tempo che voglio. È il contrario del ciclo di Jan Steps, vi ricordate il triangolo? Cioè io devo andare da un punto all'altro, da un punto all'altro. Invece qui c'ho una specie di orizzonte sconfinato, una nota che sta ferma e sopra posso suonare tutto quello che voglio, senza limiti. Sono due concezioni antitetiche. Coltrane le persegue entrambe, anzi, una dopo l'altra, per farvi capire nel giro di pochi mesi quante idee anche opposte affollassero la sua mente. Per affrontare questa idea, che si chiama, è un principio modale, cioè il modo sarebbe la scala, per cui pensi a una scala delle melodie e non agli accordi che ci sono sotto, affronta una canzone che all'epoca andava fortissimo, stava nel musical tutti insieme appassionatamente, anzitutto teatrale, poi nel 66 si farà il film, che è ancora più famoso, My Favorite Things, un piccolo valzer pseudo-viennese, pseudo-austriaco, che Coltrane trasforma invece in un cupo pezzo africano, in una specie di danza primitiva quasi. Per farlo imbocca uno strumento che era stato completamente dimenticato e che lui riporta sulla scena, il saxoprano. Il saxoprano era uno strumento introdotto nel jazz da Sidney Bechet, che l'aveva preso come una specie di curiosità, un oggetto strano, trovato letteralmente in un rigattiere, nel negozio di un rigattiere, che lui comincia a suonare, diventa un riferimento, ma è uno strumento che poi non prende mai realmente piede. Bechet rimane l'unico grande solista, finché negli anni 50 non compare Steve Lacy, che però era un musicista molto marginale, quindi nessuno si era accorto che Steve Lacy suonava il saxoprano. Bechet muore a metà degli anni 50, proprio alla fine degli anni 50, Coltrane prende questo strumento dimenticato e lo trasforma da bizzarria giocattolo da rigattiere in una specie di oboe medio orientale. Gli dà una sonorità nasale del tutto inedita nel jazz. Introduce letteralmente un nuovo suono nella storia della musica. In più, My Favorite Things, che è una canzone fatta, diciamo, di un'idea A e di un'idea B, che qui non compare all'inizio, viene destrutturato da Coltrane. Con che cosa? Con il pedale, cioè con questa nota bassa. Io scrivo X, sapete che vuol dire? X battute. Non importa che sappiate contare o no, basta vedere i numeri. Questo Odi Freddi non lo direbbe mai. Non fa niente se non sapete contare, davvero. L'importante è che capite che ci sono delle parti che sono il tema, A primo, A, in cui lui fa il numero di battute del tema. E in mezzo spezza il tema, lo allarga, lo destruttura, mettendo intere parti, in minore o in maggiore, in cui non c'è un numero prefissato di battute. Dato che stai su quella nota fissa, suona quanto ti pare. Vi faccio sentire l'inizio. Il pedale. Il basso fa sempre questo. Mm-hmm. il tema, si mette a improvvisare mentre fa il tema. Sempre sugli stessi accordi. Eccetera. Non vi faccio sentire tutto il brano perché insomma è celebre, ma per farvi capire l'importanza, perché Coltrane contemporaneamente introduce un nuovo strumento, destruttura la forma di My Favorite Things e introduce l'idea che stai su un pedale e ti muovi liberamente su di esso. Una vera e propria rivoluzione in un pezzo solo. Io adesso vorrei, come dire, concedermi il piacere, anzi prima guardiamo una foto, per ricordare che il quartetto durò fino al 65 e a un certo punto fu anche un quintetto con l'aggiunta di Eric Dolphy, che suonò brevemente fra il 60 e il 61 con il gruppo, in un momento veramente straordinario del gruppo. Però vorrei concedermi la visione di Coltrane. Noi abbiamo dei filmati di quegli anni anche per capire bene come funzionava il quartetto. Quindi ci vediamo da uno studio di una TV europea, mi pare tedesca, un filmato del 1963 in cui fanno impressions, un pezzo modale di Coltrane che lui aveva già inciso 3 anni prima, e così possiamo vedere all'opera Elvin Jones, Jimmy Garrison e McCoy Tyner con Coltrane in studio. Non vedrete, come dire, l'abbandono che loro avevano dal vivo, qui in studio sono un po' più controllati, ma la vediamo per intero questo filmato perché, come dire, da sostanza a tutte queste chiacchiere ho detto fin qui, cioè a questo rapporto intensissimo fra i musicisti e al carattere fortemente innovativo di questa musica nella relazione fra i musicisti, nell'apertura della forma e nella libertà con cui Coltrane suona, perché, vi aggiungo questa cosa, quando sentirete Coltrane vedrete che lui adesso suona le cose complicate di Jan Steps, ma su una base semplice. Sta cercando l'equilibrio tra quella razionalità arzigogolata che gli veniva da Jan Steps, su invece una base semplice che gli consente di lasciarsi andare. Usiamo un po' il volume, abbassiamo la luce, grazie. c'è un lunghissimo assolo di contrabbasso qui che ho omesso, non perché non sia meritevole di ascolto, ma perché non abbiamo il tempo. I bassisti mi scuseranno, tra un po' sfuma e riprendo all'assolo di Coltrane. Sfuma un attimo e riprende dopo l'assolo di lunghissimo assolo di contrabbasso. Rimangono solo il sax e la batteria insieme. Un duetto. Thank you. This is NET, National Educational Television. Beh, un applauso lo farei, no? Direi che... Questa è la musica più influente degli anni 60. Lo è sul rock a venire, lo è sul jazz, vuol dire che tutti i sassofonisti cominceranno a suonare il sax tenore e il soprano. Tutti i sassofonisti cominceranno a esplorare questo fraseggio così aggressivo, fatto di mulinelli, di note dissonanti, di sovrapposizioni armoniche. Tutti i pianisti adotteranno questo stile rivoluzionario di McCoy Tyner, con questi accordi aperti, scampananti, liquidi, modali che non hanno una direzione precisa ma ondeggiano avanti e indietro lungo la tastiera. È uno stile che poi diventerà parte del patrimonio pianistico. Tutti i batteristi cominceranno a cercare di adottare questa furiosa scomposizione ritmica di Elvin Jones, ma nessuno ha l'energia pazzesca di questo gruppo, che dal vivo era soverchiante. Io purtroppo non l'ho mai visto dal vivo, ma chi lo ha visto ricorda ancora dell'effetto annichilente dell'energia, della potenza sonora di questa musica, che è al tempo stesso, attenzione, stiamo toccando un punto chiave del nostro discorso oggi, al tempo stesso una elaboratissima, un elaboratissimo ragionamento razionale, perché tutte le note che suona Coltrane e che suonano McCoy Tyner sono calcolate, studiate, e studiate anche vuol dire proprio a casa, a monte, frutto di una elaborazione razionale, e al tempo stesso di una ondata di energia corporea non razionale. Ci sono tutte e due queste cose su cui torneremo. Il quartetto produce nel corso degli anni 60 per la Impulse una serie di dischi fondamentali, il disco sulle ballads, Crescent, che culminano, qui non abbiamo il tempo di affrontarle tutte, che culminano in un disco a cui abbiamo peraltro dedicato già una lezione, che è Love Supreme. Noi abbiamo già dedicato una lezione su Love Supreme, quindi qui non l'ascolteremo per intero, non faremo un lungo discorso, ma voglio mostrarvi con questo manoscritto, che credo di avervi già mostrato nella lezione su Love Supreme, come Coltrane fosse un pianificatore attento della sua musica. Lui si rende conto che Love Supreme è uno snodo fondamentale nella sua produzione. Siamo nel dicembre del 64. E si fa un vero e proprio piano di lavoro per questa suite in quattro movimenti. Notate che tra l'altro lui qui adotta il metodo Miles Davis. Lui si scrive tutto, ma ai musicisti non dice niente. Cioè li tiene sulla corda, non so come dire, no? Li tiene all'oscuro del piano generale. Lui si è preparato tutto, ma ai musicisti dà poche indicazioni fondamentali, in modo che mettano tutta la tensione di chi si trova ad affrontare qualcosa senza sapere bene dove andrà a parare. E questo esempio di manoscritto è straordinario, vi fa vedere appunto tutti i dettagli, compresi il fatto che Coltrane inizialmente pensava a congas, timbales, due contrabbassi, oltre al sax tenore e al pianoforte, quindi ad una formazione un po' diversa. Si scrive le sue, guardate i moduli di quattro note di cui vi parlavo prima, si scrive il ritmo di base, si scrive le tonalità, i giri, tutto quasi bemolle minore. Ok? Si scrive praticamente tutto. Più avanti si scrive il tema di base di Love Supreme, una cellula di tre note, la stessa su cui era basata l'assolo di So What. Guardate quanto è ossessivo Coltrane, come scava, come lavora al di là di quelle raffiche di note che avete sentito anche in Impressions. Se le andiamo a rallentare, quelle raffiche di note contengono cellule di tre note, sempre le stesse idee, il nucleo. Coltrane è un musicista che vuole in modo barocco creare architetture estremamente complesse, ma giocandosi tutto con poche cellule. Lasciatemelo dire, fatemi dire una bestialità, in questo è beethoveniano. C'è l'idea di costruire un grande edificio con delle idee semplici. E qui le vediamo queste idee semplici. Un motivo ritmico, il motivo del sassofono e perfino l'indicazione sistematica. Move in all 12 keys, trasportalo in tutte e 12 le tonalità. Coltrane è un sistematico razionale, ma è anche un musicista. Sapete cosa fa quando va a suonare? Non trasporta in tutte e 12, trasporta in 8 o 9 tonalità e altre le ripete. Perché? Perché sente in quel momento, improvvisando, che musicalmente una cosa è, come dire, il calcolo razionale e un'altra cosa è la sensibilità musicale con la quale poi vai a fraseggiare. Quindi il manoscritto non riflette neanche veramente quello che poi succede. Come sapete, l'ultimo movimento, Psalm, è una poesia, o meglio, chi ha comprato l'LP, ma forse c'è anche sul CD, credo, si ricorderà che l'LP, invece di, era a due facciate, invece di aprirsi così, si apriva in verticale. E in verticale c'era il disegno, un disegno fatto da un disegnatore tedesco di Coltrane al sax, e a fianco una preghiera. Coltrane si è appuntato alla preghiera. Era una preghiera in cui si parla della grandezza di Dio. Coltrane era credente, spirituale, ma non in una religione precisa. Diciamo che era una spiritualità panteistica, panreligiosa. Si parla di un Dio, ma non è il Dio necessariamente cristiano. Questa poesia, lui, questa preghiera, thank you God, peace, there is one, non c'è nessun altro, Dio è, esso è bellezza, eccetera. In tutto questo pensiero religioso c'è anche tempo per una nota: compra le ance a San Francisco, buy reeds in San Francisco. Lewis Porter, lo studioso Lewis Porter, la cui biografia su Coltrane è disponibile da anni in italiano anche, ha scoperto una serie di cose fondamentali su Love Supreme. Qui non vado troppo in dettaglio, cioè che le quattro parti sono in precise relazioni di tonalità fra di loro, è come un'architettura, è come un'architettura nel senso proprio di un edificio che poggia su delle tonalità in modo che l'orecchio non se ne accorge, ma sente che c'è una solidità nella relazione fra le parti. E soprattutto studia Lewis Porter con attenzione appunto la cellula di base. Tu-di, tu-da, tu-di, tu-da. L'abbiamo analizzata a lungo nella nostra lezione su Coltrane, che poi si basa su, è una cellula di quattro note, che si basa su tre note. Eccola qui. E lui la muove. Alziamo un po' il volume. Questo passaggio è un passaggio epocale, è una cosa che non si era mai sentita nel jazz. Mentre la base, con questa batteria furiosa di Elvin Jones, sta ferma sulla tonalità di Fa minore, il sassofono se ne va in giro ignorando la tonalità di base, anzi creando continue tensioni con quello che c'è sotto. È un segno di liberazione per i musicisti. C'era già il free jazz in quegli anni in cui i musicisti avevano abbandonato l'accompagnamento. Qui Coltrane fa qualcosa di diverso. Vuole conservare la base dell'accompagnamento, ma guadagnarsi una libertà su quello che fa sopra. E per fare questo passo se lo deve appuntare. Cioè, muoviti in tutte e 12 le tonalità. È come dire, studiatela questa cosa. Vi fa capire l'equilibrio fra inventiva, audacia e ragione. Un altro degli aspetti formidabili di Love Supreme è l'ultimo movimento. Chiunque abbia ascoltato il disco, e se non l'avete mai fatto vi considero fortunati perché dovrei cazziarvi, invece vi consiglio, si può dire cazziarsi, e invece vi dico, siete fortunati perché state, chi non l'ha mai ascoltato, ascolterà un capolavoro sommo della storia della musica, uno dei dischi più influenti anche sul rock, sulla musica classica, per tanti motivi. Ma dicevo, una delle cose che si ascoltano è l'ultimo movimento, a un certo punto tutto si placa e c'è questo lungo assolo di sax, che è una specie di salmo, perché il titolo è Psalm, il salmo. Ci sono voluti vent'anni, perché qualcuno, Lewis Porter, avesse l'intuizione e dicesse: ma che cosa suona qui Coltrane? Coltrane si accorge, Lewis Porter, dopo vent'anni, nella metà degli anni Ottanta, sta suonando la poesia che c'è, la preghiera, scusatemi, che c'è sul disco, e la sta sillabando col sax. Cioè porta sul sassofono la preghiera verbale che c'è sul disco. Non se n'era mai accorto nessuno. Sembrava una melodia astratta e invece la trasposizione del testo. Questa cosa è molto importante perché poi si è scoperto che Coltrane questa cosa l'ha fatta tante volte. Cioè, per esempio, lui ha tradotto in musica un sermone di Martin Luther King nel brano Alabama. Vedremo più avanti, c'è una sua poesia che si chiama To Be, dedicato alla moglie, che diventa un brano musicale. Cioè il rapporto tra la parola, come anche logico in una persona molto spirituale, il rapporto tra la parola e la, come posso dire, e la musica è molto stretto. E quindi Lewis Porter ha trovato, appunto, ha trascritto, come dire, il salmo con il testo che c'è sotto. Un amore supremo, farò tutto ciò che posso, che sia degno di te, o Signore. Tutto quello che c'è da fare con esso è grazie a Dio. E c'è questa formula, thank you God, che ricorre qui. Thank you God, ecco qua, thank you God, che è una frase vagamente blues. Peace, c'è questo salto di ottava. Ne sentiamo un pezzettino. A love supreme. Vedete che quella foga, diciamo, fisica qui si sublima in qualcosa di più spirituale, nella parola che si fa puro suono. E Love Supreme è un punto d'arrivo e al tempo stesso di svolta nella carriera di Coltrane. È come se lui avesse esaurito l'esperienza del quartetto con questo misto di tensione e sublimazione spirituale e ha in mente qualcos'altro. Coltrane, quasi dalla sera alla mattina, abbraccia l'estetica del free jazz. Lo fa andando a lezione, chiede una lezione a Ornette Coleman, che tra l'altro se la passava male, quindi è anche un modo per pagargli una lezione e farsi spiegare come aveva registrato il disco free jazz. guarda con attenzione dei giovani musicisti che lui peraltro aiuta. Coltrane diventa una potenza nel mondo del jazz, non dimentichiamoci questa cosa. Coltrane diventa insieme a Miles Davis uno dei musicisti più importanti, ben pagati e famosi del mondo del jazz, e lui usa questo potere per aiutare a trovare contratti, dischi, concerti, musicisti meno fortunati di lui. È un uomo, dal punto di vista umano, che tutti descrivono come una persona simpatica, cordiale, molto sommessa, molto un po' timida, gentile, d'animo dolce. Nonostante poi l'energia invece esplosiva che viene fuori quando suona. E, nei primi anni, nei primi mesi del 65, concepisce un'altra opera rivoluzionaria che è agli antipodi di A Love Supreme. Si chiama Ascension. Ascension è un lavoro tra i più difficili d'ascolto della musica di Coltrane, tra i lavori musicali più radicali del Novecento, tra gli esempi acustici più ostici, difficili, ma anche di violento, appassionante impatto che la musica abbia mai prodotto. Richiede un organico con tre sassofoni tenori, due sassofoni contralti, due trombe e poi una sezione ritmica con pianoforte, con due contrabbassi e batteria. All'ascolto Ascension ci appare come, in questo modo, non so se qualcuno di voi la conosce, è un'opera colossale, dura circa 35 minuti, all'ascolto ci appare così, un enorme caos di tutti che suonano contemporaneamente e poi l'assolo di un musicista. Poi un enorme caos di tutti che suonano contemporaneamente, spesso con questi collettivi sono inascoltabili, caotici, ribollenti, non si capisce niente, cacofonici. Da questi emerge un nuovo solista. Caos collettivo, solista. Caos collettivo, solista. Va avanti così per 40 minuti. È una specie di grande danza rituale. Il collettivo, il coro, come in un gospel, che cantano tutti insieme e il solista che emerge, che danza al centro del cerchio collettivo. Questa struttura in realtà cela una struttura più complessa, che qui non abbiamo il tempo di approfondire, poi la mando a Odi Freddi, ve la faccio spiegare da lui. Scusate, no, sto scherzando. Ovviamente, anzi siamo pure incontrati prima cordialmente, in realtà quelli che adesso vi mostrerò la prima parte, quello che sembra un caos privo di ordine, in realtà prevede delle stazioni. E queste stazioni sono le note dell'accordo di Si bemolle maggiore. Caos qui, caos su questo, caos su questo, caos su questo, e poi l'assolo. Sono le quattro stazioni che vi ho fatto sentire. In realtà si possono anche saltare in alcuni punti e c'è il solista dopo ognuno di questi momenti caotici, ma sono appunto quattro stazioni. Se le mettete una dopo l'altra, producono un'idea semplice, un arpeggio. Non solo, ma Coltrane usa un'idea semplicissima alla base. Anzi, da qui, scusate. Questa è, la sentirete all'inizio. Un'idea semplice che produce un caos primordiale. La ascension del titolo, questa ascensione spirituale, è data dalle quattro tappe del caos. Da questi emerge, la sentiremo solo l'inizio, con l'assolo di Coltrane, dove viene fuori, non c'è più il Coltrane apollineo che avete sentito in Psalm, ma c'è un Coltrane furibondo. È lo stesso Coltrane che avete scoperto in Castle Rock, quando suonava il rhythm and blues sui banconi del bar, andando e barrendo con il sax tenore, andando su e giù con lo strumento. Ma ora è liberatorio, diciamo così, profondamente liberatorio. Sentite che cosa viene fuori. Siamo col volume. Motivo di scendere. Oh, no. va, va. Seconda. Thank you. ricomincia il caos. Eccetera. E va avanti così. Un'opera tellurica capitale, il cui ascolto richiede naturalmente un impianto adeguato, una concentrazione adeguata, ma chi l'ha affrontato dall'inizio alla fine sa che è veramente un viaggio pazzesco, anche spaventoso per certi versi da un punto di vista acustico. È un'opera traumatizzante che obbedisce, diciamo, a un principio che i greci già conoscevano, cioè che la bellezza si può raggiungere attraverso il dionisiaco, non attraverso l'estasi, non attraverso l'abbandono del corpo, ma attraverso l'esaltazione della violenza del corpo. Lì puoi raggiungere la bellezza, puoi raggiungere un livello superiore di consapevolezza attraverso il controllo dell'espressione corporea in tutta la sua infinita potenza. Qui è all'opera un principio estetico fondamentalmente non occidentale. Ascension è, dopo My Favorite Things, dopo Love Supreme, un altro passo di Coltrane nel creare una nuova estetica. Il bello non è quello tramandatoci dalla grande cultura occidentale, ma è qualcosa che ha a che fare invece con una corporeità e una esaltazione della potenza corporea che ha invece radici nel mondo africano. I vecchi amici del quartetto non ce la fanno più a stare in questa situazione musicale completamente nuova. Il linguaggio è troppo lontano dalla loro sensibilità. Pian piano McCoy Tyner e Elvin Jones abbandonano, se ne vanno, rimane fedelmente ancorato al suo ruolo invece Jimmy Garrison e Coltrane fonda un nuovo gruppo, un quintetto, affiancandosi a un giovane sassofonista, Pharoah Sanders, un giovane batterista che vedete all'estrema destra, Rashid Ali, e incontrando una nuova persona, una donna che avrà un ruolo fondamentale negli ultimi anni anche nella gestione dell'eredità di Coltrane, che è una ex arpista, un pianista molto brava, che si chiama Alice MacLeod, appunto, che lui sposa e diventa Alice Coltrane. Una nota di colore in questa foto che io guardavo da ragazzino, ho sempre pensato che Jimmy Garrison fosse il figlio di Coltrane, e con quei pantaloncini corti e il calzino bianco. Dicevo, ma sarà il figlio di Coltrane? Invece era Jimmy Garrison. Questo gruppo è l'ultimo gruppo di Coltrane, è un gruppo che unisce in modo esaltante diciamo una nuova concezione della bellezza. E su questo faremo il nostro penultimo ascolto, che sarò costretto a tagliare perché vedo che è molto tardi, è un ascolto lungo, quindi vi farò sentire solo pochi minuti, ma prima di questo ascolto vi faccio vedere una clip di un minuto muta, perché è quello che conosciamo di questo gruppo, l'unico filmato a Newport, e potete vedere, anche se priva di sonoro, la energia fisica con cui questi musicisti suonavano. Scusate, tolgo l'audio perché non c'entra niente. Ok, grazie. Guardatelo senza l'audio, perché è un audio sovrapposto che non c'entra niente. Qui al soprano Coltrane. Siamo a Newport nel 66. Qui col tenore. Sempre i pantaloncini di Jimmy Garrison. Vi farò sentire una breve clip dal documento più eccezionale di questo gruppo, che è un concerto tenuto in Giappone, due concerti tenuti in Giappone nell'estate del 66, poco dopo aver visto, dopo il concerto che avete visto in questa clip, il famoso Live in Japan, oggi un quadruplo CD, dove troviamo la sintesi, secondo me, stupefacente, di una bellezza, come posso dire, accecante, tra la semplicità delle idee di base. La musica sembra fermarsi, il ritmo non ha più una scansione, galleggia, non c'è più una tonalità precisa, perché Alice Coltrane è perfetta, col suo stile da arpista, a creare una specie di magma pianistico tonalmente indefinito. Jimmy Garrison e Rashed Ali appunto galleggiano, e Coltrane suona sopra, che cosa? Ancora le vecchie idee di Jan Steps, ancora quell'architettura razionalizzante, intervallata a cose molto violente o molto semplici, o semplici e violente, creando una specie di clima di estasi, che però, ripeto, non è l'estasi orientale del corpo che perde peso, ma è la trance piuttosto africana del Dio che ti possiede e ti permette di esprimerti attraverso l'energia divina. E questa è la grande potenza della musica di Coltrane, un misto di assoluta semplicità e di potenza della complessità corporea dell'espressione. Non a caso il pezzo si chiama Peace on Earth, pace sulla terra. Ne sentiamo un pezzetto per farvi capire qual è il clima inedito musicale che Coltrane crea con il suo sestetto. All'epoca cominciava già ad accusare i primi malori per il tumore che cominciava a consumarlo. sono costretto a sfumare questo pezzo di una bellezza. Chiudiamo con un frammento di un minuto e mezzo, due minuti, dall'ultimo disco di Coltrane, dove c'è la pagina più misteriosa che lui ci lascia. Coltrane stava morendo, Coltrane passava il tempo davanti a delle mappe stellari, era affascinato come Bach o come Stockhausen, o come Pitagora, dalle relazioni tra astrologia, astronomia, matematica, musica, suoni. Quindi al tempo stesso, come avete sentito, una musica profondamente fisica e che però ragiona su elementi che sono spirituali, sapienziali, iniziatici e matematici al tempo stesso. Una grande complessità di pensiero e con l'elemento letterario dentro. Tutto questo, come avete visto fin dai titoli, per comunicare pace. Questa musica così violenta vuole essere un messaggio di quiete, di estasi. E l'ultimo album, Expressions, uscito postumo, contiene un brano dove Coltrane per la prima volta suona il flauto basso e l'attacco di questo pezzo misteriosissimo, To Be, essere, è l'attacco di una poesia che lui aveva scritto per la moglie, una poesia d'amore. To Be, le prime due note. Devo questa intuizione ad un mio ex allievo, il grandissimo sassofonista italiano Beppe Scardino, che ringrazio, che ha trovato questa poesia e ha messo in legame tra le prime note della melodia con la poesia che Coltrane scrive per la moglie. Questo è l'inizio di To Be. Io non credo ci sia bisogno di fare particolari commenti, perché To Be è un pezzo misteriosissimo da un punto di vista tonale, timbrico, formale, è uno degli esiti più insondabili della musica di Coltrane, a cui lui stava guardando prima di scomparire. Pharoah Sanders all'ottavino. pezzi di Coltrane di questo periodo durano 10, 15, 20, 25, 40, 50 minuti come il My Favorite Things del concerto di Tokyo. Cioè sono proprio arcate fisiche in cui questo stato di trance si raggiunge attraverso ondate di energia musicalmente senza precedenti. Coltrane scompare il 17 luglio di 50 anni fa, 1967, ci lascia un'eredità immensa, ma secondo me il punto chiave è questo. Noi nella nostra cultura occidentale abbiamo sempre vissuto, anche musicalmente, questa frattura tra la mente e il corpo. Se c'è una cosa che dobbiamo rimproverare a Cartesio, come ha detto il grande neuroscienziato Antonio Damasio, l'errore di Cartesio, dividere la mente dal corpo. Oggi non solo le neuroscienze ci dicono quello che sappiamo, cioè che la mente e il corpo non sono affatto divise, ma sono parte integrata di un'unica struttura. Coltrane ci ha mostrato proprio questo, che l'elaborazione mentale e l'energia corporea non sono due mondi diversi e addirittura in opposizione alternativi fra di loro, ma possono essere, devono e sono sintetizzati in quello che siamo. Coltrane ci ha mostrato la strada espressiva per sintetizzare la più alta forma di elaborazione razionale e intellettuale e tradurla in pura energia corporea, che non è in nessun momento una svalutazione e una ricchezza, non svaluta mai la ricchezza di quella elaborazione intellettuale, ma come dire, sono due energie che si fondono e sono assolutamente complementari e l'una non può fare a meno dell'altra. E questa è stata la grande forza artistica di Coltrane. Quindi io direi che Coltrane non solo è stato uno dei più grandi musicisti del nostro tempo, ma vi invito ad ascoltarlo anche come uno dei più grandi filosofi del nostro tempo. Grazie.